L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A dargli una degna sepoltura al gatto, quel gatto che è in testa, che si allontana un chilometro, che è un gatto morto. Ah, porca puttana, ma si allontana un chilometro, che è un gatto che non è, sono sotto i capelli. Non so se è per colpa di Mauro da Mantova, ma i capelli li ho un po' tagliati, caro David, eh? Li ho un po' tagliati. Pubblica, no, pubblica su Facebook, su Twitter. Non ho più il gatto. Non ho più il gatto sopra. Il gatto. C'è chi mi scrive: ti prego, Giuseppe, pubblica la canzone di Razzi integrale. Non posso vivere senza. Ma non vi preoccupate. Più avanti, più avanti, più avanti. Beh, amici lavoratori, scioperanti di oggi. Non ve lo posso fare per radio, anzi ve lo faccio. Tiè, non mi avete fregato oggi. Motorino, macchine a noleggio, non mi avrete mai. Tiè, proprio così, col gesto, bravo, dell'ombrello. Oppure se volete con... Poi la macchina si ferma, come nel film di Sordi che hai evocato. Strade libere, tranne un piccolo pezzo al centro di Milano, dove c'era la manifestazione per Piazza Fontana, insieme pure qualche sciopero dei lavoratori. E purtroppo ho faticato un po' con la macchina, c'era un po' di traffico. Io a piedi. Ma per il resto strade deserte quasi, strade. E dunque, tiè allo sciopero. Oppure, come diceva una volta Sordi nel famoso film, lavoratori, gli scioperi servono solo... Che mancanza di rispetto. Gli totale. Che mancanza devo dire, di rispetto, sì, totale, per persone totale che oggi hanno perso parte c'entra della loro busta paga. Ah, quelli che hanno scioperato. Scelto, ma chi, certo, se ne frega? Come chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Hanno perso dei soldi totalmente di tasca loro. Peggio per loro. Perché non credono a questa peggio riforma del mercato del lavoro. Peggio hanno, per hanno loro rimesso, perché i diritti costano. Peggio e per loro. I diritti per loro costano. Senti, siccome sulla loro pelle hanno speso dei soldi per fare la manifestazione. Allora, lo sciopero serve la vacanza, lo la sciopero serve 70% di adesioni, trasporti fermi in tutta Italia, 54 bello cortei. Se ti piace un mondo così, io, sì sì, io se sono ti venuto piace a un mondo no così. Io magari non sono d'accordo al 100% con questi che hanno fatto lo sciopero. Allora, fermo ma un attimo, ne riconosco il diritto, sì, e soprattutto vabbè, la grandezza vabbè morale di queste la persone morale che hanno perso dei soldi oggi per, vi prego, per i diritti stasera per rivendicare, insultatelo, hanno speso di tasca fermo, loro fermo lì, per, fermo lì, per i diritti, fermo capito? Lì, ma chi se ne frega? Allora, se ne frega, lo sciopero sì serve solo a dimostrare la sua inutilità. Cioè, sempre, è sempre più così. Cioè, ma gli scioperi servono solo a dimostrare la loro totale no, sì, inutilità. Bravo. Totale, totale. Sì, non è mai stato così. Sgarbone mio, t'ho risentito un po' in forma, come ai vecchi tempi, caro Sgarbone. Senti che dici. E lui non ha la forza di ribaltare un rapporto con l'Europa, che sarebbe quello che Reagan ha stabilito, essendo lui tutto sommato una figura non di una sinistra progressista, che è quello di ridurre le tasse fino al punto di riprendere l'attività dell'impresa. A proposito, proposito, caro Parenzo, adesso non ci sono delle voci sullo sciopero, sì, via via la polizia, servi merde ai poliziotti, sono, eccetera. Questo non c'entra con la maggior parte dei lavoratori. Ma sentiamo. Ma non c'entra niente con la operazione molto pericolosa, sentiamo, quella che sentiamo, fai. No, molto disgustosa, disgustosa. Sentiamo. Via via la polizia, via via la polizia. Dovete andare a Roma, dovete andare a Roma. Dove mangiano? Uscite e spostatevi. Dovete levarvi. Voi pagate le tasse, dovete levarvi. Andatevene, andate a Roma. Arrestate i politici corrotti. Andate a Roma, arrestate i politici corrotti, gridano. Poi a un certo punto ci sono lavoratori che si sono fatti fare un selfie con Efe Ball, la signora Efe Ball a Milano. Di selfie con la transessuale, con la transessuale prostituta. Selfie hanno dato a D'Alema del venduto condannato a morte. Altra perla di oggi, altra perla di oggi, come uno come Vendola dire questa è la piazza contro la mafia di Roma. Ma che vuol dire la piazza contro la mafia di Roma? Vuol dire niente, nulla. No, questo vuol dire nulla contro la mafia di Roma. Decidetevi che sciopero è contro la mafia di Roma. No, vabbè, come dire, questa qui è gente con la faccia pulita, che sì, nulla ha a che vedere con le porcherie che abbiamo si può raccontato. Dire di tutto, allora, si può dire di chiunque, allora. Anche tu hai la faccia pulita che lavori qua stasera. Perché questa trasmissione non sciopera! Noi lo scioperiamo, abbiamo i cartelli. No, però non essere non esaltati. Scioperiamo. Non esaltarti. Noi non scioperiamo. Non esaltarti. Stai noi calmo. Non scioperiamo. Stai noi calmo. Non scioperiamo. E pulisciti la bocca di quei lavoratori. Ringrazia quei lavoratori. Noi non anche scioperiamo. Se tu non la pensi come io quei non lavoratori. Nessuno. Quei ma lavoratori figura. Oggi hanno perso lo stipendio perché prega, i diritti costano. Per loro, peggio hai per capito? Loro, peggio i per diritti loro, costano. Peggio per loro. Se ti piace così, guarda, un mondo in cui non ci sono diritti. Peggio per loro, ma figurati se quello è un mondo senza diritti. Devi ringraziare anche ce ne sono fin troppi in Italia, dai. Tutti i diritti che tu hai. Nella tua troppi. Busta paga dovresti ringraziare quei lavoratori che negli anni hanno, ci hanno rimesso qualcuno senti la pelle Vendola, e il Vendola. Sangue qualcuno per averli. Bisogna cambiare radicalmente pagina sapendo che questa è anche la piazza antimafiosa. La mafia di Roma e tutte le mafie si sconfiggono con i diritti, con la cultura della solidarietà e della giustizia sociale. I diritti, la cultura della solidarietà. Io non ne posso più di sentire queste parole, non ne posso forza, più. Sei la Camusso cinico. Che dice stiamo tornando all'Ottocento, ma dove stiamo tornando all'Ottocento? Dove? Dove? Così non va perché stiamo tornando all'Ottocento, non andando nel nuovo millennio. Lavoratori! Perché non sono andati a mettere a ferro e fuoco la cooperativa là del la COP del ferro e fuoco, ovviamente. Beh, in senso fuoco, in senso li stai no, ad assediare dicendo ladri a quelli delle cooperative 29 giugno che rubavano a destra e a manca. Beh, no, perché non erano ladri i cooperanti di quella cooperativa. Ne era ladro il presidente. Era di 25.000 euro al mese. Dai, oggi su. Che è il fine settimana, perché devi farmi incazzare? Fammi sentire Cremaschi, fammi sentire Cremaschi, che è uno serio, non come te che sei un finto operaio, no, vivi, finto e vivi nel lusso. E vivi nel non lusso. Sono mai stato operaio io. Cremaschi, buonasera. Buonasera, anch'io non sono mai stato operaio, quindi non ah so, sì, già è vero. Lei non vivo nel lusso, ecco. Ecco appunto, Parenzo quello invece vive nel lusso, no, però insomma quasi, e poi fa l'operaista. Ma lasciamo perdere. Lei almeno ha il coraggio di dire io non ho mai lavorato, quasi mai lavorato in vita mia, perché ho fatto il sindacalista. Beh, no, beh, così dice, è così, non ha mai lavorato in vita sua, quasi. È un lavoro. No, io ho lavorato, poi come sindacalista. Il lavoro vero è quello della fonderia, questo non ho dubbi, è il lavoro della fonderia, il lavoro esatto. del ferroviere, quello è il lavoro dell'infermiere, quello è il lavoro vero. Noi facciamo delle attività che siamo privilegiati. Ma oggi che fa lei, signor Cremaschi? Io sono qui adesso in questo momento? Sì, in questo momento sono alla credenza di Bussoleno perché mi preparo a presentare insieme il suo libro. Un libro che ho fatto, a discutere un libro che ho fatto, ed ero a Torino stamattina alla manifestazione. Ah beh, lei ancora fa la manifestazione, nonostante il fatto che non sia più nemmeno nella... No. Io sono un semplice iscritto, sono un militante di base. Come militante di base. Se posso. A lei la piazza ancora? Perché, sì. Perché lo faccio per passione, non perché. A lei ancora la piazza piace? Proprio l'odore della piazza, della manifestazione, dello slogan. Sì, eh? È un bel posto. Si incontrano belle facce, sorridenti. Le città bloccate, sì, è bellissimo. È vero, le città bloccate, i trasporti che non funzionano. È sempre, guardi, le dico la verità, è sempre un momento. Glielo consiglio perché è sempre un momento. Un po' perso Cremaschi con questo qua. Di liberazione, di abbracci, di solidarietà. No, c'è, ma lui tempo perso. Si ha bisogno, in momenti come questi, si ha bisogno anche di questo, certo. Sì. Tempo perso, guardi Cremaschi con lui, lasci stare. Bello, la città bloccata è bellissima. Ma secondo me non si sa mai, non nessuno. Cioè, no, ma è una persona odiosa, terribile. Nessuno riesce a vivere da solo odiando tutti gli altri. No, io ma non odio così, il fatto che no, altri. Ma lui vive così. Scusi Cremaschi, ma vuol dire, è bello sentire, avere la sensazione di una città completamente bloccata. Cioè, abbiamo bloccato tutti i trasporti, nessuno viaggia, gente incazzata. Ma che incazzata? Chiama sciopero generale, sa, è così. Cioè, anzi, è così, devo dire che ancora, rispetto a quelli che vedevo io da ragazzo, sì, è poca roba, che racconta il mio libro, tanti posti non si blocca. Cioè, invece lei vorrebbe il blocco totale. Totale? Più, glielo posso garantire, cioè che lei... nel passato era garantito. I suoi sogni, c'è un paese totalmente bloccato, fermo. Per un giorno anche di più. Ma chissà perché sempre di venerdì. Sempre dallo sciopero. Mi permetta, distinguerei. Il paese è bloccato dallo sciopero. Sì. Poi però è fermo per altre ragioni, per quelle che vabbè, quello, prima. Vabbè, il paese è fermo per mancanza di investimenti, per ruberie, per una politica che non si sa dove voglia andare, cioè per questo. Quindi è bloccato è una cosa, ma fermo è un'altra. No, Cremaschi, ma si ricorda che bello che era a Parigi quando per 30 giorni, ma voi siete completamente ferma pazzi, la città per la questione della riforma dei trasporti e i parigini andavano a piedi, si sono riappropriati dei loro spazi della città. Io stesso oggi sono venuto a piedi da casa mia fino alla radio, certo faticoso, un'ora e un però quarto hai goduto a piedi. Magari, no? Però hai goduto. Però ho anche riflettuto e ho pensato che c'erano persone, un'ora e un quarto c'erano a piedi. Persone ma perché che non stavano hai un cazzo da fare? Per la gente gira ma per l'Italia è? Con la macchina, ha bisogno di spostarsi col treno, con gli aerei, non è come te nulla facente. Non succede niente. Vergognati di dire questo. C'è gente che mi ha telefonato incazzato, sono bloccato, non posso partire. E chissà perché per un giorno non parte. Proprio il venerdì, chissà perché proprio il venerdì. Traffico ci sarà, non so che cosa ci sarà oggi, torniamo tra un attimo. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele, vabbè. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglioni. Scusi Cremaschi, secondo lei Renzi è un reazionario? Beh sì, tecnicamente sì. Un reazionario. Ma guardi, non è un giudizio, per me il mio è un giudizio tecnico, cioè nel senso che è vero che tutto quello che sta facendo, possiamo parlare di qualsiasi, porta indietro l'Italia, cioè per dirne una, adesso se non è una avanzata. Porta indietro, cioè, dai, su questo è esagerato, indietro, no, non farà nulla, ma piano, non fa... Porta indietro l'Italia sul piano della legislazione dei diritti, per esempio, per il esempio, fatto che nel caso di licenziamento ingiusto uno possa prendere solo i soldi, ma non tornare al suo posto di lavoro è una cosa che c'era già in Italia. Ma cioè, poi ancora ci sono. Cioè, nel 1966 c'era una legge che si chiamava 604, che è quella a cui si sta tornando, e che diceva che in caso di licenziamento ingiusto, uno, anche se gli riconoscevano tutti i suoi diritti, prendeva un po' di soldi, ma restava. Scusi, Cremaschi, però se la situazione. Negli anni 70, con lo Statuto dei lavoratori, fu introdotta la reintegrazione. Però se la situazione. Non è una cosa nuova. Però, scusi, Cremaschi. Che c'era già e viene restaurata su qualsiasi, io credo, dei provvedimenti di Renzi, si può dire, non sono cose nuove, sono cose più antiche, più vecchie, che vengono restaurate e quindi però scusi Cremaschi, se la situazione situazione no, ma ho capito. Tecnologia delle parole. Se è la... una restaurazione, sì. È una restaurazione. Se la situazione è come lei la descrive, cioè se sono messi in discussione diritti fondamentali che lei reputa fondamentali per un uomo, no? Per un uomo, per un lavoratore, cioè una regressione all'Ottocento. Allora a questo punto, quindi, è legittimo prendere pure le armi. Perché non le armi? Cioè perché allora, cioè se la situazione è come viene descritta, si ritorna all'Ottocento, i diritti in discussione, c'è una distruzione generale dell'uomo, dei diritti, una regressione, allora c'è una specie di re lì che va ucciso, che va distrutto, che va abbattuto. Non mi farà dire. No, ma io vado. Non mi farà dire che è legittimo riprendere le armi. Però guardi, okay. Non me lo farà dire. Lo penso. Anche perché non so oggi neanche cosa sarebbero le armi. No, le armi, che ne so, la rivolta armata, l'occupazione. Io penso però che sì, non, guardi, è un problema di tutta l'Europa. Non allarghiamo il discorso, Cremaschi, no? Per dire una cosa, cioè, bisognerebbe occupare Palazzo Chigi perennemente, bisognerebbe occupare Palazzo Chigi in maniera. Bisogna cancellare molto, sì, perché una cosa Renzi ha ragione. Su cosa? Ecco, su una cosa Renzi gli do ragione. Cioè, che sono 30 anni, dice, che cioè lui fa sempre ragionamenti trentennali. L'unico problema è che, dice, che su cui ha torto è che questi 30 anni sono sempre della stessa politica. Quindi, cioè, noi siamo partiti circa 30 anni fa che c'erano certe condizioni di lavoro, di sicurezza, di servizi sociali, e stiamo precipitando verso la Cina, verso la Cina. Non è il terzo mondo per che cresce e migliora, però, noi sprofondiamo. Se lei è convinto di queste cose, perché non non sono io, lo dicono i dati dell'inchiesta dell'Ocse di questi giorni, salario dei lavoratori dei paesi più industrializzati sta precipitando verso condizioni del terzo mondo e l'Italia è quella che precipita più velocemente. Però scusi, cioè, Cremaschi, sono dati, ho capito, sono numeri. Vabbè, lasciamo perdere adesso l'analisi sui numeri, però lei dice sono condizioni delle persone, mettiamo se lei pensa che uno in giro davvero. Ma se uno parla dell'Ottocento, l'Ottocento è il disastro. No, infatti ma si dice l'Ottocento, ma io penso che sia peggio. Peggio dell'Ottocento, ma lei dovrebbe prendere la pistola allora, Cremaschi, se mai... No, guardi, io non mi farà dire che io prendo la pistola. No, però ci prende. Non me lo farà dire neanche, cioè, se qualcuno assalta il governo, se qualcuno prende d'assalto Palazzo Chigi, prende d'assalto Palazzo Chigi, ha qualche ragione secondo lei? Io penso e spero che i cittadini, nelle forme della democrazia, forme della democrazia, sì, rovescino questa politica. Rovescino la politica? Rovesciare una politica, sì, ci sono le forme, compreso lo sciopero, le lotte, le manifestazioni. Cioè, sciopero tutto l'anno. Sciopero tutto l'anno. A questo punto ci sia, questo sì, una rottura con una politica da 30 anni, di cui Renzi è l'ultimo esponente che ci ha portato a questo disastro. Senza È peggio di Berlusconi, secondo lei? Mi faccio dire solo questo: se avessimo ma non dipende da Renzi, una ripresa economica enorme e con grandi ingiustizie, uno mi può dire la medicina è amara ma funziona. Il dato vero è che la medicina è terribile e poi non funziona neanche, perché tutti i dati economici ti dicono che la crisi economica si aggraverà. Ma è peggio di Berlusconi da questo punto di vista, Renzi? Sì, perché Berlusconi non c'è riuscito a fare quello che sta facendo Renzi, o no? Beh, è più pericoloso di Berlusconi, perché Berlusconi era, ma lei lo dice, da sinistra, destra. Renzi ha occupato la sinistra con una politica di destra, quindi io se devo dire sentimentalmente, io odio più Renzi di Berlusconi. Insomma, sì. Però scusi un attimo, e allora questi a sinistra fanno l'opposizione a Renzi sono dei qua perché non escono dal PD? Anche questo non me lo farà dire, che diciamo che si dovrebbero dare un po' una mossa, ma non lo dico io, lo dice anche la gente in piazza. Cioè, uno non può dire non sono d'accordo e poi ti voto. Queste cose qui non funzionano. Non funziona. Su questo le do ragione. Non funziona più. Cioè, questa è una cosa di cui non se ne può più. Io lo dico a chi c'è. Certi linguaggi. Cioè, non se ne può più. La situazione è troppo grave per continuare a fare le solite manfrine. Parenzo, che dici tu? No, odia Renzi, signor Mi colpisce Cremaschi. Questa odia cosa che Renzi. Ha detto, che odia Renzi, però. Odia Renzi, se uno odia. Condivido assolutamente. Sì, ma guardi, non si può dire odio Renzi, questo non si può. Mi dà fastidio Renzi, cioè se lo incontra per strada, che fa? Lo sento un imbroglio, lo sento una falsità, forse perché sono vecchio, e allora, siccome tutte queste cose, lei è molto più giovane, le ho già sentite 30 cosa vuol dire anni fa, odio? Quando c'era Craxi al governo, le stesse parole, le stesse battute, questo fa venire una rabbia. Ma ancora peggio di Craxi, dice, ancora peggio di Craxi. Beh, peggio, meglio, non lo so, diciamo che Craxi non ce l'ha fatta come Berlusconi, lui le sta facendo le cose che ha fatto Craxi. Per cui altro che monetine, meriterebbe... lavoratori. L'ha fatto Renzi. Meriterebbe più che le monetine di Renzi. No, non me lo fa dire, no, io, non me lo fa dire, lei ha detto odio, odio di quello. Penso che bastano le parole perché le parole sono pietre. Ma lei sa, che, lei sa che l'odio, quando uno dice odio, poi spesso porta, l'odio porta violenza, eh? Lo so, ma tante cose portano violenza. Le politiche economiche della Commissione Europea, della Troika, stanno portando violenza. Cioè c'è gente che sta proprio male, che perde la salute. Dunque in qualche modo la violenza è giustificata. Politiche violente contro i cittadini. E dunque la violenza è giustificata in alcuni casi, secondo lei? In alcuni casi, eh? Guardi, io non, generalmente non la giustifico però? La violenza, perché penso che sia un mezzo, però la capisco in alcuni casi, sì la capisco, come assolutamente, la violenza, come dice Manzoni, come dice Alessandro Manzoni, la violenza dei poveri non è uguale alla violenza dei ricchi. Beh, insomma, Cremaschi, devo dire che lei non difetta di, però non difetta di sincerità. Beh, no, così non deve difetto dire. Di sincerità, d'altra parte sono solo un militante di base. È nel covo dei notab. Per fare carriera bisogna mentire un po' di più. A presto, arrivederci. Arrivederci. Giornale Radio. Lavoratori! Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Lavoratori! Queste discussioni sugli guarda scioperi. Guarda che è finita male quella volta. È finita male perché gli si blocca la macchina ad Alberto Sordi. Farai quella fine lì. No, a me non attento. Mi si blocca nessuna macchina perché non ci vado in macchina. Ti si blocca cui. Il motorino, la macchina, ti circonda. No, stai attento che no. Finisce come nel film. Stai attento che finisce come nel film. Mi stai augurando che qualcuno mi venga a dare delle legnate? Non sia mai. Non sia mai. Non sia mai. Ah, no. Ti prego. No, mi sembra che mi stai augurando che qualcuno mi dia tante legnate. Ho detto attento che poi succede come nel film. Per quello che legittimamente penso, legittimamente penso sugli scioperi, chiaro? Attento che finisce come nel film, ti dico. Tanti oggi li ho fottuti questi show, questi scioperanti. Li ho fottuti questi scioperanti. Finisce come nel film. Ma li ho fottuti questi scioperanti. Motorino e car sharing. Attento che ce n'è per tutti. Ma che vuoi dire? Che fai? Minacci? No. Che fai? Minacci? Ce n'è per tutti. Nel frattempo è spuntato fuori questo SMS vergognoso di Salvatore Buzzi. Salvatore Buzzi lo vogliamo sempre ricordare, però, perché qualcuno se l'è dimenticato e parla dei fascisti che ci sono certamente, di Carminati, Alemanno, gli altri fascistoni che piazzavano nelle municipalizzate, in quei carrozzoni delle municipalizzate che sono un'altra vergogna italiana che andrebbe cancellata domani. Renzi, dove sei? Ha promesso di intervenire su questa cosa già da quando si è insediato e fino adesso non vediamo assolutamente nulla, ma abbiamo speranza ovviamente. Signor Salvatore Buzzi è un iscritto al Partito Democratico, come lui stesso aveva rivendicato in un articolo scritto in favore di Scajola, addirittura, no? In un giornale romano più o meno nel periodo in cui Scajola fu arrestato anni fa. Iscritto al PD, uomo della sinistra buonista, graziato da Scalfaro nel 94, omicida, condannato a diversi anni di galera, a 34 anni, no, 34 non le coltellate, scusami, le coltellate che aveva dato al suo socio in affari, aveva poi tentato di bruciare il cadavere. Ecco, questo uomo qui, iscritto al Partito Democratico, sinistra, catto comunista, graziato alla Scalfaro nel 94, no, c'entra, bisogna ricordare sempre tutto. Questo signore qui, signor Salva, come tu ricordi le cose malefatte di altre persone, io ricordo le malefatte di queste persone, ovviamente sono imputati, no? Allora, signor Salvatore Buzzi scriveva con un SMS: speriamo che il 2013 sia un anno pieno di monnezza, profughi e bufere. È come quel costruttore, ti ricordi, no? È una persona da abiette terribile. Io ridevo stamattina alle 3:30 dentro al letto, quello del terremoto. Sì, certo, sono uno schifo. Speriamo che il 2013 sia un anno pieno di monnezza, profughi e bufere. Poi uno si chiede come mai la situazione dei campi rom, la situazione dell'immigrazione non si risolve mai. Sai che Salvini dovrebbe ringraziare Buzzi, eh? Beh, certo, innanzitutto perché questo scandalo Salvini sta facendo aumentare i consensi. Su cui diremo qualcosa, perché in questi giorni abbiamo dimenticato di dire una cosa su Salvini, ma aspetta, lo diremo dopo, sì, più avanti, abbiamo tempo, di un signore che va in Russia, ma fammi dopo ma dirò. Che c'entra? Una che va in Russia. Stai zitto, dopo di vai in Russia a chiedere i soldi a Putin. No, non è così. Vai in Russia e chiede i soldi a Putin, dice magari mi finanzia anche a me. Un deputato al Parlamento Europeo che dovrebbe rappresentare gli interessi dell'Italia va in Russia e chiede i soldi al signor Putin. Ma di che cosa stiamo parlando? Venduto alle potenze estere, venduto alle potenze. Comunque di Salvini parleremo dopo, perché abbiamo da dire anche su questo caso che hai nascosto nel corso della settimana. Hai nascosto sotto il grande tappeto della zanzara. Hai alzato il tappeto e hai nascosto hai aperto il tappeto e hai buttato questa polvere sotto. L'hai chiusa. Hai nascosto il tappeto. Il tappeto di Salvini, dei rubli, di Putin. Stai esagerando. Hai nascosto. Ma non c'è nessun denaro. Hai nascosto questo dettaglio. Ma noi lo tiriamo fuori. Ma quale dettaglio? Noi della sinistra della zanzara lo tiriamo fuori. La sinistra della zanzara. Nuovo partito, sì. Hai nascosto, hai alzato il tappeto, tutta l'immondizia. Ma io lo scoperchio quel tappeto, dove sotto c'è tutto. Tutta un'immondizia che hai nascosto, per non parlarne. Immondizia. È finita, no? È finita. Scusa, un momento, ma di. Allora, Righetti del Partito Democratico dice giustamente, no, Righetti dice io pubblicherei la lista dei presenti alle cene. Vabbè, certo. Ma questo è giusto, io non capisco perché la risposta del Partito Democratico su chi è andato alla cena di Renzi, che è una cosa bellissima secondo me, le cene di Renzi a 1000 euro sono una cosa bellissima, lo posso dire chiaramente. Io la penso, vedi, sono stato invitato tu, sono stato invitato anch'io. Ma io poi non potevo quel giorno. Sono stato invitato anch'io. Io ero a pescare, no, io non sono vado perché un giornalista non ci deve andare, secondo me. Se non a raccontare, ma invitato al tavolo, e allora qui io la penso così. Ma questo è legittimo. Dopodiché è bellissima questa cosa, è un'iniziativa però moderna. Però non farmi la polemica che c'era il tavolo pagato da Buzzi. Nel PD come nel PDL non sono dei questurini, però, diciamolo, no? Però diciamolo, ma che c'era il tavolo pagato da Buzzi, l'abbiamo già detto 2000 diciamolo volte. Allora Righetti, ti prego, però ti prego, no, Righetti, ti prego, dice, ma sei d'accordo con te stesso, però Righetti dice io stai calmo, io pubblicherei la lista di quelli che erano presenti alle cene. Questo è giusto, perché se non c'è niente da nascondere. Ci sono forse delle norme anche di privacy. Ma quale norme di privacy? Forse a persone che hanno fatto questa cosa e non vogliono uscire allo scoperto. Ma siccome io ne conosco, ma è sbagliato. Io conosco dei nomi, forse li conosci anche tu, di persone che hanno finanziato ma non vogliono dirlo. Io li conosco, ad esempio, ma non per paura o per chissà che, perché a parte che oggi è molto trendy stare essere vicini a Renzi, oggi. Fammi no? sentire un attimo Righetti, dai. Però, fammi sentire Righettone. Io le liste dei presenti le renderei pubbliche domani mattina. Perché Renzi non lo fa? Io credo che realmente oggi si ponga ulteriormente un problema di persone che danno, non dico la liberatoria, ma la disponibilità a dire sono andato, non sono andato, c'ero, non c'ero. Dopodiché Renzi a bersaglio mobile da Mentana aveva detto che queste liste sono pubbliche, ma non risulta, perché altrimenti i giornali le avrebbero pubblicate, avrebbero pubblicate per intiero. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Sciopero generale, cortei in 50 città, CGL, adesione al 70%, Camusso non ci fermeremo, Barbagallo faremo la nuova resistenza, scontri a Torino e Milano. Allo sciopero risponde il ministro Poletti, ascoltiamo la piazza ma avanti con le riforme, l'Europa chiede coerenza, Fassina e Vendola, il governo cambi rotta. Napolitano, le esasperazioni non fanno bene al paese, lo sciopero è segno di notevole tensione fra sindacati e governo, occorre rispetto reciproco. Renzi in Turchia, serve il coraggio di fare le riforme o ci condanniamo ad un lento declino? L'Italia è spalancata agli investitori internazionali. Arriva in Consiglio dei Ministri la stretta anticorruzione annunciata dal governo, in discussione aumento delle pene e restituzione dei beni. Marino annuncia che Roma si costituirà parte civile nell'inchiesta su Mafia Capitale. Forza Italia attacca, la giunta si dimetta e si torni a votare. sequestrato il secondo cellulare usato dalla mamma del piccolo Loris, era intestato ad un'amica, attesa per la decisione del GIP di Ragusa sulla convalida del fermo. Questa trasmissione non sciopera. Questa trasmissione non sciopera. Questa trasmissione non sciopera. Ma che c'è? Non sciopera. Allora, la tua amica Diana Pavlovic, Diana Pavlovic, intervistata oggi dal signor Zincone. Sì, non c'è bisogno che lo sottolinei di continuo. È un'attrice, attivista politica. Attrice, attivista politica, rom anche lei, di origine rom. Dice con noi rom i politici hanno raddoppiato i voti. Può darsi sicuramente che molti speculano dal punto di vista politico sui rom. Sicuramente c'è qualcuno che ha fatto i soldi, guarda, non c'è dubbio. Sicuramente moltissime persone hanno fatto i quattrini. E si capisce anche il motivo per cui queste emergenze continue non vengono mai risolte. Questo è il punto fondamentale della vicenda. Si capisce, io devo dire grazie a questa inchiesta, grazie a Buzzi, perché finalmente abbiamo capito perché molte cose in Italia, le famose emergenze, l'emergenza rom, l'emergenza immigrati, l'emergenza profughi, per esempio se ne è aperta un'altra adesso, vogliono aprire una tendopoli a Padova. Una tendopoli a Padova, amico mio. E quindi? Una tendopoli, abbiamo degli audio pure su questo, una tendopoli a Padova. Le tendopoli. Senti che cosa dice la gente, senti. Certo è che una tendopoli fa abbastanza brutto perché presuppone una situazione che non è particolarmente importante e soprattutto poi sotto il periodo di Natale anche l'emotività gioca la sua parte. Antonio da Milano. Antonio, dimmi. Buonasera dottor Cruciani, buonasera a tutti. Dimmi, dai. Gli ascoltatori e anche al dottor Florenzi. No, ma noi non ce ne frega niente dei buonasera. Intanto le volevo dire che stasera, grazie agli scioperi, lei ha acquisito un ascoltatore in più. Perché io sarebbe? Lo sopro nei suoi confronti lo faccio tutti gli altri giorni quando posso sentire altre trasmissioni. E chi se ne fotte? E quindi da questo punto di vista può annoverare nella limitatezza del suo modo di pensare, può annoverare un qualcosa a cui lei non ci sarebbe bene, mai arrivato. Ottimo, ottimo. Comunque, stupendo. Le mie domande sono molto banali. Me le farà dopo la borsa. Dopo... Grazie. Resti attendo, qui, caro Antonio da Milano. Ti abbraccio fortissimo. Vorrei che ti fidanzassi anche per un breve periodo con me. Non la toccherei neanche con una canna. Comunque, no, ci sentiamo con una dopo, canna, grazie. La canna se vuole se la fuma lei. Io non faccio uso così, insieme a Parenzo magari, una bella cannetta. Vuole fare dialettica con me, trovo la persona giusta. Ottimo, a tra poco. Lavoratori! Attento al GDC, sai? Allora, considero Gratteri, il procuratore Gratteri, Parenzo, un magistrato di grandissimo valore, no? Il magistrato anti-ndrangheta, però se ne è uscito con una cosa abbastanza strana. No, con una cosa abbastanza strana. Beh, non è che uno c'ha l'impronta in faccia, ci mancherebbe altro, solo perché il procuratore è anti-ndrangheta. No, non basta quello, certo. Appunto, no, in particolare considero Gratteri. Però senti come se ne è uscito sulla questione della scuola del pomeriggio, cioè i ragazzi. Cioè i ragazzi dice è bene che abbiano che vadano a scuola anche il pomeriggio. Sì, l'ha detto altre volte già, sì. Perché altrimenti potrebbero cadere in mano ai pedofili. Sì, l'aveva detto anche a Ponzo. Ma ragazzi, ma è una cosa assurda. Sì, dai. No, ma non era solo quello, parlava anche di criminalità in altri contesti. Ma sì, sono degli altri. Dicendo che in alcune zone. No, ma senti, pericolo... senti sta roba. No, ma la trovo una cosa assurda adesso, francamente. Va bene tutto, però non è che se i ragazzi siccome. Che nell'abbandono delle famiglie, col ma che fatto c'è l'abbandono? Che qui dice. Col fatto che i genitori entrambi lavorano, perché oggi ma non c'è la mamma sempre a casa. Vanno con i telefonini a scuola e possono essere adescati ugualmente dai pedofili. Che la scuola sia un luogo sicuro, è un posto dove i bambini possono rimanere più a lungo e protetti. Sentiamo Gratteri, dai. Ci vuole una scuola di lungo periodo, ci vogliono di pomeriggio altri insegnanti, che trattengono i ragazzi a scuola, perché quando vanno a casa, se sono in una famiglia normale, si attaccano a internet, Facebook e si attaccano quindi alla rete, quindi ai pedofili, a gente deviata, a gente malata e disturbata. Se sono di persone, di famiglie mafiose, vanno a casa e si nutrono di cultura mafiosa. Sì, vabbè, in casi estremi, in casi estremi va bene, d'accordo, ma no, non è che la scuola il pomeriggio, perché altrimenti uno diventa arriva nelle mani dei pedofili. Dice dai. Che ma scusa, però ha detto vabbè, un'altra questa, cosa. Questa francamente è una stupidaggine, dai. Dice, tu. Ma secondo me assolutamente no, ma invece, perché l'ha detto dai. Sia sulla mafia, come ti avevo anticipato, ma sì, già un'altra adesso volta. Non stiamo a discutere detto. Troppo, messa così, ma messa così. Io non la penso come te e non stiamo a discutere vabbè, troppo. Non d'accordo. Discutiamone, basta, va bene, via, altro. Adinolfi, dai, avanti, su. Cosa vuole Adinolfi adesso? Che c'entra Adinolfi? Ah, no, non lo so, chiamando. Tanto per dire una roba, cosa vuoi mettere Adinolfi? Chi vuoi mettere? Vuoi mettere, non so, dai. Mi piace un mondo così. Antonio, dai, Antonio, appunto. Che dicevi? Appunto. Ecco, eccoci qua. Beh, intanto è strano vedere sempre che le assurdità, secondo lei, le dicono sempre gli altri. Comunque, a parte no, io ne dico tantissime. Io ne dico tantissime. Allora, io ho detto che in questo caso mi sembra una stupidaggine. Se mi fa concludere, la ringrazio. No, Antonio, qui non siamo a porta a porta, cioè, uno dice. Questo Antonio ti manda. Cioè, non è che siamo a porta a porta, che uno dice, no, scusa, prego, smetto di parlare. Se ma non mi interessa, bravo Antonio. Certo che la faccio esprimere il suo pensiero. Posso fare anche tranquillamente a meno. No, non è che, ma io. Non è che è obbligatorio. Ma lei può dire quello che vuole, ma non mi puoi imporre un certo tipo di. Beh, intanto ci diamo del lei, no? Che secondo me è molto. No, meglio, io le do del tu. Se vuole le darmi del lei, le può darmi del lei. Assolutamente sì. Io ti do del tu. Io ti bravo, do del Antonio. Tu. Non c'è problema, non le mando l'avviso di garanzia perché mi dà del tu. Non importa. Ma quello no, ma mica è un magistrato lei. Va bene, ascolti. Niente, volevo dirle questo. Io non ho perso la speranza di farle sentire una parola seria da tutte le altre volte che l'ho ascoltata. Volevo chiederle, quando è l'ultima volta che ha provato l'ebbrezza di un sentimento vero, come la stima, come l'amicizia, ogni giorno, come un qualcosa, ogni quando è l'ultima volta che ha pensato ogni di giorno. Far venire in mente un'idea che possa risolvere i problemi di una comunità, beh, di una quello, collettività ogni qual giorno. È la sua posizione su chi si schiera con gli ultimi, con i diseredati, so di con che quelli parlando. Che hanno bisogno. Bravo, Antonio, bravo. me lo dica perché io non so di cosa di sta parlando. Io ho pensieri buoni ogni giorno, sì, ogni però santissimo strano, giorno. Però è strano perché come si possa dire, i pensieri buoni sono lastricati, sì. No? Per esempio, un pensiero buono che porta i pensieri buoni è lastricata di buoni pensieri. Per esempio, il pensiero buono è quello di averla qui con me stasera, Cruciani, di ascoltarla. Lei svolge una funzione, buonissimo, lei svolge una funzione sociale e senza lei, la funzione sociale se la può mettere in quel posto. Non ha fatto altro che aggrapparsi al decadimento culturale di questi ultimi anni dell'Italia. Questo è stupendo. Né più né meno. Questo è stupendo, guarda. Assolutamente. Lei io non sono ha fatto aggrappato. Che ampliare ed aumentare questo decadimento culturale. Lei bravo. È perfetto. Perché non scrive una lettera alla famiglia cristiana? No, è bravo, ma sia è bravo. Tranquillo, lei. Quello che devo fare io. Scriva una lettera certo alla famiglia cristiana. Lei. Una bella lei lettera. Un personaggio pubblico dovrebbe avere ma la scriva una lettera alla famiglia cristiana. Di accettare le critiche infatti, che deve infatti vengono lei rivolte. Sta parlando tranquillamente senza problemi, mi sembra, no? Sì, qual è il problema? Assolutamente. Scriva una bella lettera agli amici di famiglia cristiana. Finisco augurando. Buon Natale e felice anno nuovo. Bene, mi fa orrore, però va bene. Io lo lascio fare giusto perché lei, guardi, mi fanno orrore gli auguri. Però se vuole li può fare. Sì, dato tranquilla, che... a me fanno faccio orrore. Faccio un atto di bontà. Un dottor atto Cruciani, di bontà. A me fanno orrore altre cose. Benissimo. Ma non gliele dico per questione di convenienza. Salve, buona serata. Buona serata, arrivederci. Giuseppe dalla provincia di Ancona. Bravo, sto Antonio. Ma sei un cretino. Sì, tu sei il primo dei cretini. Bravo, Giuseppe questo. Dalla provincia di Ancona. Il primo dei cretini bravo, sei tu. Giuseppe, Antonio. Che c'ha di bravo? Cioè, bravo, bravo. Con la voce. Giuseppe tutto. Dalla provincia di Ancona. Tante cose che l'ascolto su piacere, a maggior parte sono d'accordo con lei, però me deve spiegare una cosa. Sì. Lei ha lavorato mai nella vita sua? Ma io mai. Oh, che severe che c'ha avuto. Io mai, mai. Io ma pensi anni? Che io guadagno un sacco di soldi per, facendo pochissimo, divertendomi come un pazzo e dicendo stronzate, tantissimi soldi, tanti. Però non strapazzi la gente, i poveracci che lavora. Come no? Alla grandissima. Beh, io non sono d'accordo con lo sciopero e dunque mi esprimo nel modo in cui mi va di esprimermi no, sullo sciopero. Non sono d'accordo con lo sciopero. Punto e basta. Se sapessi in 40 anni di camionista quanti scioperi ho beccato io. Appunto, lei dovrebbe essere incazzato come una bestia per aver fatto 40 anni di camionista con gli scioperanti che le rompevano le palle. Ma io sono stato anche due giorni e una notte a Taranto. A che fa? Bagnoli, che c'entra Taranto? Bagnoli. A Genova, all'Ital Siver. A che fare? A Novi Ligure. Hai capito? A che fare? Le ho beccati alla FIA, le ho beccati dappertutto, da tutta Italia i scioperi. Però no, no, no, no. non ho fatto mai niente di tutto questo. No, ma guardi che non ho capito, francamente. No, ha detto che non ha mai usato i termini che hai usato tu, sostanzialmente. Ho capito, ma ho usato i miei termini. Nonostante ha ma subito... nessuno ha nemmeno usato i termini che ha usato prima il dottor Cremaschi, quando ha detto odio Renzi. C'è una via di mezzo, eh? Aspetta. Il cliente da lei chiamato non può rispondere in questo momento. La invitiamo a riprovare. Era un signore. Giovanni da Bergamo. Una signora, scusa. Giovanni da Bergamo, una signora, forse un signore, una signora. Giovanni. Buonasera a tutti. No, io chiamavo, sentivo prima il vostro dibattito con Parenzo. Allora, io sono tra quelli che sono contrario agli scioperi, perché innanzitutto ormai passati gli anni 70, passati gli anni 80, non si ottiene più niente questi scioperi, perché chi comunque deve decidere va avanti per la sua strada. Gli scioperi servono a spiegare la loro inutilità, per rendere evidente la loro inutilità. Vediamo. Scioperi servono. Sì. Assolutamente sì, servono, figuriamoci. Servono per spiegarci che sono inutili, per dimostrare che sono inutili. E allora, e la gente che li fa cosa non stupida? Non definire la gente che prende i soldi è stupida. Che spesso e volentieri viaggiano organizzati a spese delle associazioni sindacali. Per cui, ma non è nemmeno questo, ognuno aderisce spesso per così per no un corno, per, ma chi ci rimette soldi non aderisce così, ma molti aderiscono, possono aderire persone come me, per inerzia. Persone come me, vabbè, quelle che tu etichetti come me possono aderire per snobismo intellettuale, no? Sì. Persone che hanno il maglione caldo, no? Quelli come me, tu diresti, possono aderire. Sì, possono aderire. Quelli che invece hanno perso. Che marca usi di cashmere? Quelli che invece. Non faccio pubblicità alle marche. Che marca usi di cashmere? Quelli che invece. Non dico la marca. No, Cuciani non fa. Come no, Cuciani non fa cashmere? Fa cashmere? Non credo. Come no, Cuciani? Quelli che invece hanno fatto direttamente lo sciopero oggi hanno perso dei soldi. I ferrovieri. Marco dalla provincia di Chieti. I ferrovieri, gli operai. Giovanni, volevi concludere? Quelli meritano rispetto. Molto. Di scioperi, ricordiamoci anche degli stipendi di questi rappresentanti sindacali che se ne vanno in pensione con 8.000 euro al mese. Non tutti, non tutti. Euro di stipendio. Ma come si scalda quando si parla di sindacali? Ma sì, perché Marco fare questa, Marco fare dalla provincia questa di Chieti. Latrina dove dentro latrina. È tutto uguale. Ma se c'era il capo di uno dei principali sindacati, il capo di uno dei principali sindacati che se guadagnava fino a 300.000 euro, il capo di uno dei principali sindacati. Guarda caso, dai l'informazione completa. Della guarda CISL, caso, della CISL. Guarda l'ex caso, capo della CISL. È l'unica sigla che non ha aderito ma allo sciopero, c'entra? Giovanotto. Ha aderito altre 100.000 di volte. È l'unica sigla che non ha aderito allo sciopero. Dai, Landini prende 2.000 euro al mese di stipendio, Marco, cioè dalla lo provincia stipendio di Chieti. Più alto di un metalmeccanico della firma. Marco dalla provincia di Chieti. Sì, pronto? Dimmi. Ciao caro, allora io voglio dire, io sono un operaio Fiat da 27 anni e sono totalmente incazzato ancora con queste cacate che vanno facendo i sindacati, delle cacate enormi. Sì, ma scusa, dalla provincia di Chieti, scusami, dalla provincia di Chieti che Fiat c'è in provincia di Chieti? La Fiat di Val di Sangro. La Fiat di Val di Sangro, e secondo e tu sei iscritto al sindacato? Sì, io sono iscritto alla CGIL. Però sono oramai qualche anno che non lo seguo più, ci sono iscritto proprio perché mi serve al di fuori della fabbrica. Io faccio il turno di notte, stasera da lavorare tranquillamente, non c'è problema. Ma in che senso? Ho visto molta gente in segreta. No, ma in che senso? Non ho capito, ti serve per altre cose il sindacato? Perché io sono legato con tanta gente per bene che veramente c'è rimasto nel sindacato, poca gente che lavora veramente, anche con contratti di merda, anche per però io volevo dire che questi scioperi generali oramai queste persone le fanno soltanto per creare casini, per rompere i coglioni in un mondo dove, in un'Italia dove non si lavora, questi continuano ancora a far perdere ore di lavoro a quei pochi che lavorano, portandosi in piazza centri sociali. Ma perché la gente aderisce? Non cazzo da fare. Marco, sono d'accordo con lei, però perché la gente aderisce in maniera ancora al 60%, 70% no, di adesione? Guardi, la gente che aderisce non è più quella di una volta, perché stamattina ancora al cambio turno mio, quando è arrivato il turno di mattina, il 90% è venuto a lavorare, perché il 90% è stufa di questi parassiti che fanno sindacato anche nelle fabbriche. Sono dei parassiti, parassiti. Io per guadagnare qualcosa in più faccio il turno di notte fissa, e di notte ascolto Radio 24, la scaletta non la sto ascoltando, però l'ascolto sempre di notte perché non c'è mai la novità ed è ancora meglio, però tutte le notti li ascolto e in replica. Però posso voglio dire, ricordare a Parenzo un'altra cosa. Epifani si aumentò, se non sbaglio, lo stipendio prima di andare in pensione in maniera arbitraria, come documentarono le Iene. Male. Ricordati anche questo, eh. Se è vero, ma non me lo ricordavo, hai fatto bene a ricordarlo. Male, molto male. Questo ascoltatore da Pescara, con questo operaio della Fiat da Pescara, che ha detto che i sindacalisti spesso sono dei parassiti, che lui fa il turno di notte, che non ha aderito allo sciopero, mi sembra. Luca, o hai aderito? Non ho capito. No, io non sono un operaio della Fiat. Lavoro in proprio nell'azienda di mio padre e tutte le mattine mi alzo e non penso allo sciopero, penso ad andare avanti con la mia azienda, a innovare la mia azienda. Ma non ho capito, non ho mai detto prima che eri un operaio? No, io sono Luca da Pescara. No, ma c'è l'altro, chi era quell'altro? Scusa, quell'altro dalla provincia di Chieti? Ah, Abbassato, sì, scusami Luca. Io? Sempre la stessa regione, mi sono confuso, dimmi. No, tutte le mattine io mi alzo e non penso a fare lo sciopero, penso a motivare i miei colleghi ad andare avanti. E Parenzo ha ricevuto una bella lezione da un operaio della Fiat. Sì, va benissimo, accetto quello che dice quello. Guarda, caro Luca, non so come si chiama, Luca si chiama, Luca, no? Luca. Caro Luca, non è che gli operai che si svegliano tutte le mattine dicendo facciamo sciopero, perché ripeto, questi che si alzano tutte le mattine per andare in fabbrica a lavorare. Ormai è finito il tempo degli scioperi. Ma non è che si svegliano pensando allo sciopero, pensano a lavorare, al lavoro, al salario che non c'è. Oh. È finito. Diglielo Luca. Questo qua, ma che dice sto poveretto? Poveretto, è uno che la pensa diversamente da te, dunque è un poveretto. Per me è un poveretto. Vabbè, è un poveretto. Come per te sono poveretti. Hai detto delle cose terribili. Ma non ho detto quelli che hanno cosa fatto terribile. Sciopero. Ma no, so solo, ma ho detto terribile, so solo che terribili, che oggi sono passato sopra col coso, so, grazie a car sharing e al motorino ho fatto tie. Ma aspetta, eh. Aspetta. Ma Luca c'è ancora? Sì, io sono qui. Allora, che vuoi sono dire ancora qui. A Parenzo, dimmi. E comunque io alle 19.49 sono ancora in ufficio, da solo, a lavorare e non a pensare a pagare anche quella gente che c'è la pena a fare e sciopero. Cosa c'entra questo? No, c'entra. Perché cosa vuoi, applausi? Che vuoi? No, il problema dell'Italia sai qual ma è? Che vuoi, applausi? Bravo, lavora, fai bene, giusto? Il 40% delle persone lavora per pagare gli altri 60 che non fanno niente. Quello è il problema. Sì. Applausi, quello bravo. Quello è il problema. Filippo. Ma io non voglio gli applausi. Io non voglio gli applausi. La fiera del qualunquismo, avanti. Ma fino a quando vero, dura la fiera del qualunquismo? Ma vieni in azienda. Fino a che data dura la fiera del qualunquismo? Spiegami un po'. La fiera, no, voglio venire a visitarla. La fiera del qualunquismo chiude quando? A Natale chiude e riapre poi con l'anno nuovo? Con i brevetti. Non si fa, fa lui i brevetti, però. Le fa. Le fa sto qui sì, i brevetti. Sì, sto qua fa i brevetti sono questo. Io sono mamma mia, un che brevetti brevetto. Che fa. Sì. Ma vergogna, te lo stai insultando, vergogna. Questo qua allora, fa i brevetti. Innanzitutto, allora ti spiego, se tu hai il coraggio, spiego, vieni in azienda da me e vedi vengo, il brevetto vengo. Che ho fatto. Dammi l'indirizzo che ci vengo volentieri. Di veramente, mandami l'indirizzo, va. Ci vengo volentieri. Vieni a vedere il mio brevetto, vieni a vedere come combattiamo la crisi, non con gli scioperi. Guarda che gli operai non è che vogliono gli scioperi perché si divertono a stare a casa. Guarda, sì, si divertono perché furbo ne che non sei una... venerdì, si divertono a stare a casa. Domenica a casa. Ma dove quella vivi? È la verità. Ma dove quella vivi? È la verità. Ma fatti un brevetto di intelligenza prima di parlare. Cioè, secondo te gli operai. Secondo te gli operai stanno. Ma come si fa a dire che gli operai stanno. Sono felici di fare sciopero? Ma dove vivi? Ma dove vivi? Ma dove vivi? Gli operai contenti di fare sciopero? Non li ho mai visti prima. Ma i servizi da Berlusconi. Prima gli dicevano e poi vai da Berlusconi. Ma cosa c'entra questo? Cosa c'è? È il mio editore. Ho lavorato anche alla 7, da Berlusconi. Vabbè, adesso non c'è bisogno di spiegare. Da Sky. Professore? Buonasera. Come andiamo, professore? Bene, siamo in attesa della sentenza della Corte d'Appello di Brescia. Vabbè, sulla discriminazione omosessuale. Sì. Appello! Libertà! Veramente. Ma dai, giudici della Corte d'Appello, non potete condannare il professore Taormina per quello che ha detto. Dai, su, è una follia. Non influenzare la Corte. No, ancora non influenzare la Corte. Influenzo tantissimo la Corte. Conoscessi cosa farei un inferno, conoscessi i nomi. Dai, su, come si fa a condannare il professor Taormina semplicemente perché ha espresso la propria opinione? Dai, ma quale discriminazione? Di che stiamo parlando? Dai. Vabbè, comunque, torneremo un'altra volta. Professore, innanzitutto mi dica ci una cosa. Ci interessa il suo parere su una vicenda però di cronaca importante. Ecco, non so a che punto... Scherzi, no, senza scherzi. Non so a che punto siamo nella vicenda di Loris, del hanno piccolo convalidato Loris, il fermo della signora, vabbè, della madre, quello d'accordo. Della ma ecco, che bambino. Analogie ci sono con la vicenda? La prima cosa è questa. Che errori hanno commesso, secondo lei, ancora i magistrati? Perché non l'hanno definitivamente incastrata ancora a oggi. Sembrava essere chiusa questa vicenda. Beh, insomma, ci sono molte cose ancora che debbono essere chiarite. Sì, certo. Prima di tutto, secondo me, chi l'ha aiutata se c'è qualcuno che l'ha aiutata. Poi, secondo lei, poi, c'è qualcuno? Ma guardi, le caratteristiche dell'omicidio sono veramente molto singolari, perché pensare che una madre possa, di fronte a un figlio che dobbiamo immaginare inerme, prima legarle i polsi con le fascette, poi stringere un'altra fascetta intorno al collo, francamente mi pare che ci siano dei tempi piuttosto lunghi nei quali francamente mi sembra che ci può essere un complice. L'ipotesi dell'aiuto c'è tutta. Ma la difenderebbe anche lei? Perché, c'è un caso anche perché se è entrata in casa, il bambino è entrato in casa da solo, un po' strano che la madre lo possa aver mandato a casa senza sapere che qualcuno ci potesse essere all'interno, ecco. Quindi sono tutte ipotesi, dobbiamo essere garantisti sempre. Ecco, professor Taormina diceva prima Parenzo, no? Ma lei lo prenderebbe, assumerebbe questo caso, ecco, appunto, lei difenderebbe, e che farebbe soprattutto subito, perché qui ormai... che c'è da fare adesso subito, innanzitutto prima... guardi, qui c'è da lavorare su due no, ma lei la difenderebbe la signora? Non c'è motivo perché non si debba difendere una madre che quando uccide un figlio, certamente in tutte le condizioni può stare, meno che in una condizione normale. Questa è un nuovo caso Franzoni, forse, questo. È un percorso diverso questo perché questa ragazza ha avuto una vita difficile, ha avuto due tentativi di suicidio, ha avuto altre vicende. Cioè, insomma, secondo lei un avvocato, se lei dovesse difendere la donna, andrebbe verso l'insanità mentale? Io credo che questa sia la via privilegiata, una perizia psichiatrica. Un avvocato bravo dovrebbe puntare a una perizia psichiatrica per non farla andare in galera. Un avvocato bravo deve fare due cose. Primo, essere molto attento a vedere se gli estremi di responsabilità siano realmente sussistenti. No, perché anche chi è pazzo può essere innocente. Non c'è dubbio, però. Ecco. E poi, naturalmente, parallelamente, seguire bene la storia della perizia psichiatrica, insomma. Cioè, secondo lei, da quello che sembra, dalla vita della madre di Loris, insomma, ci sono dei profili di follia. Ma guardi, no? Dalla vita e da due altre cose. La prima è questa posizione estremamente di evidenza assunta attraverso questi comportamenti di grande disperazione, che se non li vogliamo considerare teatrali, sono certamente una cosa molto interessante dal punto di vista psichiatrico. C'è un altro problema, altro punto importante. Cioè, secondo lei, scusi, è proprio alcuni atteggiamenti sono talmente evidenti che sembra pazza. Guardi, o dobbiamo pensare che stia fingendo in maniera cinica, oppure l'alternativa più probabile è che sia insana di mente. Allora, torniamo subito per la seconda cosa. Torniamo subito. Dire una cosa sola, no, ma però. Torniamo subito perché c'è la pubblicità, la musichetta, sta rottura di cazzo. Lei ha lavorato mai nella vita sua? Ormai è tutto tutto degradato. Mi scrivono in maniera molto moderata, Fiumicino bloccato per lo sciopero dei fancazzisti amici di Parenzo. Il mio volo spostato dalle 14 bello, alle 20:50. Chi se ne frega? Merde. Tanto non hanno questo nulla da fare questi del club da Roma. Ma no, ma era un lavoratore. Questi era un lavoratore. Riccardo da Roma. Era un lavoratore. Club. Era un lavoratore. Non avendo nulla da fare. Loro direbbero un cazzo. Ma era un lavoratore, era un lavoratore. Di stare lì e smanettare su internet. Professore, mi dica qualcosa anche lei sullo sciopero inutile. La prego, professore. Ma guarda, io su questo punto sono un po' in dissenso. Ormai sei diventato, sei diventato di sinistra. No, io penso che tutto quello che aggravi la situazione attuale viene bene perché questa è una situazione veramente ormai intollerabile dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista della capacità di resistenza dello Stato. Cioè deve crollare tutto. Secondo me deve crollare tutto. Ma anche rovinosamente. Anche rovinosamente. L'importante è che crolli. Vabbè, tanto che te frega, tu fai l'avvocato se crolla tutto. No, voglio dire, con tutta la gente che vuole dice che tanto che ti frega, crolla tutto, invece no, non deve crollare tutto qua. Invece deve crollare tutto, mio caro, se no non ricominceremo mai nel modo giusto. Se mettiamo le toppe a destra e a sinistra, non facciamo altro che... Ma che la rivoluzione... Una rivoluzione seria, il problema è che non si fa la rivoluzione perché evidentemente, ma la gente ormai è talmente, pensa soltanto tanto a se stessa. Ma tu la faresti pure armata, professore? No, io farei una rivoluzione naturalmente di carattere culturale, istituzionale. Però se dovesse venire fuori una rivoluzione armata non mi meraviglierei. Questa è la mia posizione. E lei sarebbe pure contento, d'altra diciamo. Dall'alto delle sue case ad osservare le teste che rotolano. Guarda Cruciani, che qualcuno l'ha detto proprio in questi giorni. Che ha detto? Qualcuno ha detto che in effetti è una situazione nella quale non ci si deve meravigliare, lo ha detto il presidente Napolitano. Ma devono rotolare le teste o no? Le teste non ci dovrebbero proprio essere. Qualcuno ha detto andiamo alle elezioni con il divieto per tutti quelli che hanno fatto politica fino ad oggi di non candidarsi in nessuna elezione comunale, provinciale, regionale. E leggiamo le persone nuove, le altre persone che sono tante, che oggi costruiscono la maggioranza di chi subisce. Torniamo a Veronica per dire questo. Altro aspetto particolarmente interessante dal punto di vista psichiatrico è il fatto di avere la donna senza essere richiesta, quindi in maniera assolutamente spontanea, andata con le fascette con una delle quali aveva ucciso potrebbe aver ucciso il figlio, andata alla scuola per dire guardate vi do le fascette perché possono servire per le lezioni di scienze che fa. Beh, questa è una conclamata confessione da parte della donna che ha fatto in maniera automatica, come automa, è andata lì. Per cui uno potrebbe puntare all'insanità mentale. Ma pensateci bene, ma chi le comandava di andare alla scuola a portare... Mi sembra che lei sia già pronto per la difesa, non voglio dire niente. Io non sono pronto per niente perché non me ne frega assolutamente nulla, per carità, non è questo il problema. Ma questi tanto non c'hanno una lira questi qua, tanto. No, ma tra le altre cose, quindi questo è un... Ma le persone vanno difese a prescindere, scusi. Vabbè, ma io poi magari faccio le cause per le parcelle, per cui mi è giusto, ma è giusto. No, però in questo caso questi non c'hanno un euro. Questo però non c'è la similitudine con la Franzoni, non c'è. No, quella è una famiglia, c'ha un po' dei soldi. Quello fa il camionista. Ma proprio come vicino, anche quello conta, professore. A me non mi hanno pagato, questo è certo. Poi ancora? No, ancora no. Ancora pagheranno, un pagheranno, non vi preoccupate. Dice che pagheranno. Ma certo, stia tranquillo. Vabbè, hanno già avuto una tragedia, però dai, non si accadisce. E la mia tragedia economica. Scusa, che Dio la mettete. Ognuno c'ha la sua. Ognuno c'ha le sue, certo. Comunque. Ma una causa gratis, ad esempio, la difesa di un rom la prenderebbe. Ma quale rom? Ma lo aspetta, io ho difeso la famiglia dei 4 bambini bruciati qui nel campo del rom qui a Roma. Gratis. Certo, certamente, l'ho difesi gratuitamente. Ma difenderebbe me gratis, imputati, professore? No, ma lei la pagherei io per difenderla, quindi non è diversa la situazione. Però io dico una cosa, allora la Franzoni innocente, invece lei pensa che sia innocente? No, innocente secondo Taormina, dicevo. E invece Veronica no, giusto? Ma guardi, io le dico una cosa, io non ho una sicurezza in No, sulla Franzoni sì, lei pensa ancora che sia innocente. No, sulla Franzoni è un altro discorso, ma dico parlando della mamma di Loris. Ci sono degli aspetti che vanno chiariti, perché come dice lei la pistola fumante ancora non ce l'hanno in mano, anche se quei 35 minuti, 32, 36, sono 36, particolarmente indicativi. Però insomma c'è molto da chiarire, anche l'atteggiamento del padre deve essere studiato, queste posizioni dei parenti, alcune contrastanti con la donna, altre invece di sostegno e via dicendo, insomma c'è qualcosa che deve essere approfondito. Sì, no, questo, che ci sia qualcosa da approfondire, adesso non c'è dubbio. Siamo d'accordo. Arrestata subito, probabilmente se colpevole è, avrebbe sicuramente confessato. Un errore degli inquirenti è stato quello di non averlo fatto subito. Cioè arrestarla subito. Ma non le manca un po' la battaglia, le televisioni, porta a porta, queste cose qui. Non ne fida più nessuno. La grande battaglia con i plastici. Ma c'era Crepè. Signor Crepè c'era, la Martone. Lei deve sapere che io sono stato messo all'indice da tutte le parti, perché Berlusconi non mi sa andare su Mediaset. Ma figuriamoci. Qualche volta che qualcuno mi chiama, dopo 2 giorni non mi chiamano più perché Berlusconi evidentemente è intervenuto e ha detto quello non deve andare alle televisioni. Manco Danuzzi, manco Danuzzi ti fanno andare, quarto grado. Pensa un po', manco Danuzzi, vabbè, però voglio dire, questo è un... quasi un titolo di merito, adesso addirittura. Quindi voglio dire. Adesso non mi metta nei guai, quello ci sente, ma mi monta un casino. Quanto riguarda Nuzzi, per carità. No, per carità, non voglio dire questo. Chi c'è che mi rompe i coglioni? Paolo da Udine, che vuoi Paolo da Udine? È sempre qui in collegamento, è uno che interviene sempre, Paolo da Udine. È un cretino, secondo me. Buonasera. Che vuoi Paolo, dimmi. No, sento. È un cretino questo. No, cretino sarai te, Parenzo, adesso non andiamo su ste cose. Mi innervosisce solo la voce, comunque sto zitto, guarda. Mi innervosisce solo la voce di questo. Ma stai tranquillo. Sì, ma che vuoi sempre intervenire, Paolo? Allora, io sento con piacere che la trasmissione sta prendendo una piega umoristica. Cioè, siamo in che senso, al massimo dell'ilarità, non per il tema drammatico, non mi permetto di scherzare su quello. Ma per la figura dell'avvocato Taormina. Che c'ha, che ha fatto? Ma fa ridere un casino, mi diverte. Dovrebbe andare a Zelig. Perché è straordinario, l'avvocato dopo i danni che ha fatto lì a Cogne adesso abbia il senso dell'umorismo di parlare anche di sta storia di Ragusa. Ma si faccia una passeggiatina, si prenda una cioccolatina a casa. Ma le posso dire una cosa? Quali sono stati i danni di Cogne? Ma si è visto. Quali sono stati i danni di Cogne? Una donna che si è è stata condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio, a lei pare che sia un risultato negativo? Io credo che sia un risultato molto positivo. Quindi che cazzo dice lei? Non sa nemmeno dove si... No, io so benissimo, io sto dicendo un fatto di pregnacce, ha capito? È smentito dai fatti. Calmi. Questo è partito, non è vero che la Fantoni è stata condannata a 16 anni per aver ucciso il figlio. Sì o no? Le pare che 16 anni per uccidere il figlio per una cosa giusta? o sono una cosa invece che sono il risultato di cos'è una, che fa un approfondimento che io ho conseguito. Professore, un attimo. Paolo, basta però, ma lei innervosisce. Poi ho letto che vuole anche i soldi dalla Franzoni, ma è lui che dovrebbe pagarla, risarcirle i danni che le ha fatto. Se ne vada a quel paese, faccia un altro mestiere piuttosto che scuole. Ma lei non deve fare un mestiere, faccio io mi immagino un'altra cosa. Ma che cazzo dice? Ma che dice? Se non mi fa parlare, aspetta, professore, aspetta. No, fermi. Avvocato, esci dal corpo. Non si ricorda come si è conclusa la vicenda di Cogne. È vero o non è vero? Sì, ha ragione, professore. Aspetta. Ha ragione, dormi. La pensione ha preso 16 anni. Ha ragione, professore. Paolo, che cosa vuoi? No, però io dico una cosa. Ma voi vi immaginate se l'avvocato difendesse la Panarella? Se prima aveva una sola possibilità di essere assolta con lui e come avvocato, dritta in prigione senza passare in pazzia. Caro signor Paolo, le dico questo, che lei mi sta diffamando, e anzi ingiuriando e diffamando al tempo stesso, per cui io sì, farò la copia di questa è un ascoltatore, è la coerentissimo, sa cosa lo dico, pagherà i danni alla grande una cosa di questo genere, un professionista che invece le porta le prove, ma infatti dai, no, lei pagherà i danni. Ma sì, pagheremo. Va bene, Paolo, basta. Senta, adesso, basta. Come basta. Con la Roma com'è che andiamo? Tutto bene? Ma va, io seguo soltanto il calcio ad alti livelli, dalla Roma proprio me ne frego. Però quando Nasri ha depositato la palla in gol, devo dire che... Ma che c'entra la Roma? Ma è la voce, sì, è anche la voce di sto Paolo da Udine che mi ha innervi a me. L'avvocato è sempre così preso anche dalle storie, dalla Juventus. Ma lei non sta per niente da fare che rompere i coglioni a me. Ma anche lei non ha nient'altro da fare. Ma perché non si prende e si fa una bella cioccolata calda? Lei che mi disprezza così tanto, ma per quale ragione vede la trasmissione alla quale partecipo per i motivi? Ma basta, adesso Paolo! Per fortuna, no, Dio mi salvi! Ma lasci stare! Di non fare il buffone! E lei poi non vuole i gay nel suo ufficio, ma sono loro che non vogliono lei! Lei, non vogliono entrare nel suo studio legale, se mi permette! Basta Paolo, adesso via, basta. Che c'entra la Juve e la Roma? C'entra tutto, pur di voi, insomma, fermatelo, fate qualcosa, chiamate un esorcista. Ma che di che squadra sei? Paolo, di che squadra sei? Ma io sono juventino. E che non si capisce? Ma come non si... Sì, vabbè, sono juventino, io seguo squadre ad alto livello. Simpatizzo anche per l'Udinese, sempre bianconeri sono, grandi squadre. Ma pure Siena bianconero, guardi, pure no, Siena. Ma il Siena, se vuole, no, a livello della Roma, se la tenga. Guardi, lei è l'espressione della cultura juventina, fatta di arroganza, di presunzione e di aggressione. Un'ultima domanda, ed è la verità che in tutte le manifestazioni vi presentate in questo modo, anche in questa sera, in un discorso che potevamo fare, entro altri serio, giorni, no, è vero. Un'ultima domanda, a gamba tesa come uno stronzo, e glielo dico in faccia. Ci sta, Paolo, scusi. Poi saluto. No, è la voce che mi dà sui nervi, a me, proprio questa voce. Sì. Lei parla di presunzione. Garcia, che all'inizio neanche incominciato il campionato, ha detto vinciamo lo scudetto. Mi sembra una cosa normale. È finito il campionato, non aspetti. Tranquillo. Paolo, basta. La coppetta non c'è più. Intanto tutto questo. Poi adesso vedremo. Vabbè, basta Paolo, mi hai rotto i coglioni. Pubblicità. Paolo, mi hai rotto i coglioni. Basta, vattene. Ciao, vattene. Ma qui è tutto un casino, che siamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Me lo faccio da paretto. Amici miei! Siamo al top, eh? Oh, dobbiamo chiedere scusa al professore, Parenzo, perché professore, mi scusi, ma questo qua sono persone che guarda, ti inga... mi ha scritto Gennaro Caravano, che è un amico che ha no, perché di queste persone dice, ma questo Paolo da Udine, perché lo mette? Dice, guarda che Gennaro no, infastidisce anche me molto. No, il problema di questo Paolo da Udine, lo sai che cosa fa? Scrive Paolo da Udine, vabbè, ci possono essere tanti Paolo da Udine, poi ti mette, quando vuole intervenire, ti mette, voglio intervenire su tot, voglio dire una cosa che è completamente diversa poi da quello che dice. Professore, che dobbiamo fare? È così. Ma che dobbiamo fare? Questi qua bisogna tagliare e basta. Ma comunque... almeno parlano, almeno ma sì, si sfogano, così non picchiano la moglie a casa, almeno non, almeno non picchiano la moglie a casa, non si nascondono come i ladri che ci abbiamo in tutta a proposito il New York, Times ha scritto giustamente, c'è da vergognarsi, secondo me non c'è angolo d'Italia immune da crimine, il New York Times, non c'è angolo d'Italia immune, ed è proprio così, professore. Purtroppo è così, perché correre appresso a determinati tipi di reati certamente gravi, ma non tali da poter diventare endemici. Sì. E invece tenere un comportamento da parte della magistratura molto blando, addirittura assente. Lei pensi che a Roma per 20 anni, 15 anni, non abbiamo visto prima che arrivasse Pignatone, La verità dei fatti, perché per 15 anni, 20 anni sembrava che tutti gli angioletti fossero scesi. Ma scusi, lei non diceva che Pignatone era, quando era in Calabria, era bravo, no? Insomma, quando era in Calabria non è che diceva che era bravo lei Pignatone, no. No, io non ho detto che non è bravo Pignatone, non è bravo, è bravissimo, soltanto che fa determinate cose. Io allora mi interessavo della questione, gestisce determinate su cose su Duisburg modo... Lei è stato molto duro con Pignatone sulla vicenda di Duisburg, vabbè, comunque lasciamo perdere, è stato molto duro, certo, perché continua ad essere convinto che quello era un processo, vabbè, che doveva essere fatto in Germania e non in Italia, dove è stato fatto male, come tutte le cose italiane, come tutti i processi italiani. Ma al di là di questo, tecnicamente ha una capacità investigativa indiscutibile, voglio dire, però quello che mi interessa, perché la capacità dovrebbe averlo mediamente tutti, a Roma sono 20 anni che non si vedeva un processo, o se non raramente, per reati contro la pubblica amministrazione. Sembrava che comune, provincia, è vero, fossero stati immersi nella santificazione, finalmente si comincia a capire. Certo, vedete che sono tutte cose che radicano nel passato, perché si tratta di vicende che hanno avuto una loro gestazione, si tratta di vicende che sono penetrate negli interstizi delle attività amministrative, eccetera. Questo si fa con gli anni, ma si fa anche con la mancanza di controllo e di intervento della magistratura. Va bene, grazie professore. Buonasera. Saluti. Sto Paolo da Udine è terribile, eh? No, perché terribile. Dice delle cose, ma anche la voce a me nervosisce. Sì, perché anche solo è freddo, la voce. È la freddezza. Sì, non è che urla, che non alza, si scompone, non quel si modo scompone. Che ha di fare, esce dal corpo. Cos'è che diceva? È terribile, è fastidioso. Un groviglio di partecipate comunali, aziende speciali, istituzioni locali. Questo groviglio di aziende aziende comunali paga ogni mese lo stipendio a 38.000 dipendenti, fattura 7 miliardi di euro. Beh, e te credo che rubano poi. Non è legato a questo. Filippo, provincia di Genova, vai Filippo, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Allora, questa mattina ero in piazza San Carlo a Torino per lavorare e non per scioperare. E ho sentito i soliti discorsi. Diamine, ma questi sono indietro di 30 anni. Quando hanno Quando hanno ottenuto qualcosa, perché hanno ottenuto, io lavoro in banca e credimi che hanno ottenuto. Hanno ottenuto di bloccare l'Italia, sì, certo, per anni hanno bloccato l'Italia, si hanno garantito solo i garantiti e non hanno fatto nulla per quelli non garantiti. Quello non c'è dubbio, hanno ottenuto cose per quelli garantiti come me, peraltro, come me. Ma soprattutto l'hanno ottenuto nel momento in cui in Italia c'era il Bengodi ed era facile, hanno ottenuto quello che volevano. E adesso ora bisogna mantenere tutto uguale. Licenziatemi, dico io, licenziatemi, non c'è problema, licenziatemi. Bisogna cambiare, non è possibile. Sono discorsi che facevano 30 anni fa, e poi lasciami dire la musica di Guccini, De Gregori, ma sì, Bertoli, ma solite cose. Sembra, sai che qualunquisti che chiamano Bertoli, ma che sei tre qualunquisti? Ma perché uno che ha un'idea diversa dalla tua è qualunquista? Bertoli è morto. Ma che c'entra? Quella è la canzone, stava dicendo la bellissima canzone del grande Pierangelo Bertoli. Come quelli che chiamano dicono non si è possibile, non se ne può più. Ma che, ma io non ho capito, uno che ma a parte che questo non ha detto tutti i ladri. Guarda, Filippo, gli dici che non sei uno di quelli che ha chiamato dicendo le cose in questo modo? Matti, no, matti, non tutti, ha detto così. Tutti a lavorare, Ivada a lavorare, no, ignoranti, no, ladri, ladri. Rispondi tu, Filippo, rispondi tu. Mamma mia. Ma l'età, ma guarda che io, credimi che c'ero in Piazza San Carlo, l'età media, ma almeno 60 anni. Io un giovane non l'ho visto. Ma sì, poi ci saranno pure, ma... Ma poi anche lì identificano sempre il dipendente come operaio. Non c'è solo l'operaio, signori. Certo, se proprio vogliamo vedere operaio. I lavoratori, sono tutti lavoratori, non c'è solo l'operaio. Alberto da Lecco, grazie Filippo. Alberto Lecco. Pronto? Dimmi. Io voglio sapere che cazzo ci fa lì Parenzo in quella cazzo di trasmissione. Vabbè, questo lo decido io, se permetti. Cioè, ma scusami, ma che cosa lì a fare? Cosa lì a fare? Ma che vuol dire? A esprimere le sue idee, le opinioni, a fare battaglia. Il giornalista. Sì, ma scusami, è lì in trasmissione, quante parole dice in una trasmissione? Beh no, ma non è vero, stasera ha parlato. Rispetto a te, Cruciani, che ma che vuol dire, Alberto? Adesso questo non vuol dire nulla. Fai una critica seria invece di dire stronzate, dai. Ma non sono stronzate, ma scusami, se io fossi il direttore di Radio 24... Non lo sei, appunto, c'è un motivo, parole dette... Ma c'è un motivo se Alberto da Lecco non è direttore di Radio 24? Io non riesco. E il motivo è questo qua, quelle stronzate che dici, quindi c'è un motivo. Ma le stronzate le dici. Chiediti come mai non sei direttore di Radio. Neanch'io, per carità. Ma chiediti perché non sei direttore, Alberto da Lecco. Ma che cosa ci fai? Chiediti perché. Dici, ma perché non sono direttore? Chiediti, datti una risposta, caro Alberto da Lecco. Vabbè, Alberto, però il tuo, quindi la tua critica. C'è Cucini che mi ha telefonato, che è infuriato con Filippo da Torino. Mi ha mandato un messaggino. Ma figurati se ti ha mandato Guccini. Ti do il numero. Guccini, dai. Guccini, mi ha chiamato adesso. Guccini infuriato. Vabbè, infuriato. Chiamiamolo un attimo. Ma che chiamiamo? Adesso mando il numero. Mi ha scritto. Ma vabbè, ho capito, perché l'ascoltatore di prima diceva che c'erano adesso delle mando il messaggio. Riccardo, scusa, metti fuori dall'ascolto un attimo, che ti mando in bassa frequenza. Toglimi un attimo dall'audio, bassa così questo Alberto da Lecco, non lo so, isolami che ti do il numero di Guccini. Vabbè, Alberto, tanto ho capito, sto fare demente, una critica seria, sto demente, continua a parlare, dai. Vai. Questa mattina a Radio DJ, sentite. Pronto? Sento, chi è? No, io lo sento, Cruciani, sono Fabio Volo, ciao! Oh, Fabio! Ciao, allora, senti, ogni tanto, ultimamente, sì. Ok, non sopporto più questo buonismo e queste critiche da parte degli ascoltatori, mi viene un po' da mandarli a quel paese, no? Ok, allora io dico, cazzo, il maestro di questa roba qua è Cruciani, lì fa la zanzara al pomeriggio. Tu non è che insulti gli ascoltatori, tu dici per esempio non mi interessa, ma che cazzo hai chiamato a fare? Sì, allora guarda, io ti do un suggerimento, non hai bisogno. No, perché poi io quando li insulto vado via e mi resta dentro questa cosa tutto il giorno, che ho detto forse non avrei dovuto, e invece tu, cioè, come te la piaci? Tu ti penti di mandarli a quel paese. Perché io non sono così di carattere, mi ci fanno diventare. Allora guarda, ti do un consiglio, brevemente, 20 secondi, 30 secondi. Vai. La cosa è questa: tu una volta, al massimo una volta a puntata, cioè in un'ora di puntata, una volta. Un vaffanculo volta, si può fare. Quando qualcuno proprio insiste che si vuole sfogare, che ti vomita addosso qualcosa o che vomita addosso qualcosa a qualcuno, tu lo fai parlare. Ogni tanto lo interrompi e gli dici: hai finito? Ti sei sfogato? Ok. Io sono l'antidoto, gli devi dire, sono l'antidoto, perché altrimenti tu picchieresti a casa la tua fidanzata, tua moglie, cioè ti sei sfogato, meno male, sono contento, almeno non picchi tua moglie. Ecco, vedi, ti metti in testa che è una questione sociale la tua. Posso andare a vedere degli ascoltatori, vediamo, no? Aspetta, sì. Qual è l'insulto che ti fanno a te? A me dico, panettiere, oppure tu non sei laureato come me, sai quelle robe lì di solito. A me, dico. Giornalista dei miei stivali, tu non sei un giornalista, sei solo un un raccomandato, un raccomandato. Sì. Eccolo qua, tu sei solo fortunato perché solo in questo paese potevi diventare famoso, coglione. Ecco, cosa posso dire? No, ma lì devi dire, io guadagno un sacco di soldi dicendo cazzate. Così devi dire a questi qua. Ah, quello... E sono contento di guadagnare un sacco. Tu devi farti un mazzo così dalla mattina alla sera per guadagnare un decimo di quello che guadagno io. Io invece sono pagato tantissimo per dire stronzate. Ma sei diventano dico una pazzi, cosa... diventano pazzi. Vanno già... diventano pazzi, pazzi. Ma scusami, vedi, io invece avrei voluto dire, ma io vendo tanti libri anche in Germania, in Spagna, in Cile, invece diventavo antipatico, invece giù dritto così. Sì, dritto cazzo. Così, vedi, io sono, non solo sono fortunato, ma tu magari ti fai un mazzo così da macchina in giro, gli incontri, le cose, i venditori, oppure fai l'impiegato, io guadagno, tu in particolare guadagni 10 volte più di te, e sto qui a dire una marea di cazzate, stupendo, diventano matti, impazziscono. Io starei male tutto il giorno se dicessi una cosa del genere. Vabbè, sei il mio maestro, sei il mio maestro. Ma... ciao, in bocca al lupo. Ciao. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Chiamiamo il bar, Parenzo, chiamiamo il bar, aspetta. Sai quale bar, sai quale bar sì, dobbiamo chiamare. Non quello delle due signore. No, no. Non quello di Napo Torriani a Milano, delle due signore nobile and... Bar Armando? Sì, Maristella Finezzo? Sì. E lei? Sì. Senta cara, è lei che fa gli scontrini con la foto del Duce? Perché? No, così, per sapere, perché sono venuto una volta e mi ha colpito questa roba. Sì, sono io. Non si vergogna, cara? No, non mi vergogno perché è un personaggio storico, io non ho mica messo che sono un nazista o non ha... Io non mi vergogno perché se ce l'avessi messo Che Guevara, lei non avrebbe detto niente. Beh, non lo so, io rispetto la mia idea e lei rispetta... Io, signora Maristella... Io rispetto la sua, no, lei rispetti la mia. No, ma io mi indigno, cara la mia signora Maristella... proprio una bella stella, perché stella mia, se lei fa mette gli scontrini di cui non c'è bisogno con la foto del Duce, con tutti i danni e i morti che ha provocato Mussolini, fa guardi una cosa che si chiama apologia di fascismo. 15 milioni di morti. Ma chi? Hitler non c'entra niente con me. Mussolini ci ha rimesso la vita per non ascoltare più quel, sì, ma che quel bisogno c'è di metterla sanguinario sugli... Scusi, cara, ma che cosa vuole? Guardi che io non l'ho mica Stella, fatta la guerra, sa. Stella, Stella, mi scusi, ma che bisogno c'è di metterla sugli scontrini del bar? Della carta, ma del bar? Ma a lei cosa gliene frega? Quando viene qua, vada in un altro bar, ce ne sono 80, Cerea. No, ho capito, ma che perché deve metterla su... E mi fa, perché mi manda ai matti il fatto che lei metta la foto del Duce, l'immagine del Duce, negli scontrini del suo bar. Scusi, non sarà mica normale. Stella? Stella? Adesso ci penso io, aspetta. Penso io. Pronto? Pronto? Buonasera? Pronto? Caffè Armando? Pronto Armando? Caffè Armando? Signora Finazzo? Fernando Bologna. Sì, sono io. Salve, dimmi, buonasera. Dimmi, dimmi. Senti, io volevo parlare un attimo della, ho ascoltato prima l'ascoltatore che insultava Taormina, e io, siccome Taormina ventilava la querela, sì, io gli volevo suggerire, se ancora in ascolto, di andare avanti nella querela. Perché, ma quale querela? Me... Ma voi siete diventati tutti pazzi, tutti vogliono querelare tutti. Parenzo vuole querelare chiunque. Taormina vuole querelare l'ascoltatore. Dai, su, basta con chiunque puntata. Manco per niente. Secondo me il discorso che e questa, in questa, non, la gente deve imparare a usare i media senza calunniare le persone. Ma quello è intervenuto, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma qui alla Zanzara c'è la battaglia, quello è intervenuto contro Taormina perché pensa che Taormina sia un cialtrone. Va benissimo, ha esagerato, d'accordo. La battaglia deve essere magari sui contenuti. Ma la battaglia è su quello che diciamo noi. Se a lei non piace questa battaglia, va a sentire Radio Bubù o Radio Vaticana o Radio Popolare o quello che vuole. No, va bene, d'accordo. Io ho detto quello che pensavo io. Secondo me Taormina farebbe bene. Lei lo vuole appoggiare, d'accordo. Simone, Bologna. Voglio fare un regalo a Parenzo da parte di Riccardo da Roma Fans Club Cruciani. Cioè? E con questo... No, però Simone, non si è sentito bene, però perché forse vecchia, l'hai tirato. È già fatta da me anni fa. Tirato, no? Sì, Nike? Nike, sì. Nike, ciao, sono Giuseppe, come stai? Ciao Giuseppe, bene tu? Bene, ciao Rivelli, la signora Rivelli. Signora Rivelli, quella mettiamo che sempre lo stacchetto, lo stacchetto. È quella che tu mandi. Ma lo vogliamo tanto rimettere, per favore, lo stacchetto? E questa è diffamazione aggravata. No. Rimetti aspetta, ti faccio sentire, Nike. Rimetti lo stacchetto, rimettilo. È diffamazione? No, lo stacchetto della Rivelli. Sì, non lo so, l'abbiamo. È diffamazione aggravata. Ma quale diffamazione? Quello su Parenzo? Sì, su Parenzo. Quello lì è diffamazione aggravata. Ma quale diffamazione aggravata? Aggravata. Ma è stupendo, ma è stupendo. Ma è una cosa che ha detto fenomenale qui alla Zanzara, sì, una volta. Sì, lo so, mando, è diffamazione. Adesso lo mando. Me lo stanno cercando perché questa è radio, amico mio. No, com'è la cosa? Com'è? Sì. Ma scusa, è vero che sei diventata lesbica? Io? No, sono sempre stata sexy sexual. No, però ci sono delle foto tue, no, che dice che sei innamorata. Fine, dice che sei innamorata di una. No, mi hanno detto che sei innamorata di una donna. No, è tutto falso. Amore, ma ormai si parla, se ascolta quello che si dice. Ma no, ma sono innamorato con la foto di una donna che baciavi. Ma tu, no, molti hanno capito che eri... Vine, che è una gag, dove c'è un mago, tra l'altro molto famoso, e gli dico, mi fai apparire una donna bellissima da baciare? E appare Silvia, cosa che l'ho incontrata per la prima volta, poi... È bella? Foto. È bella? Bellissima. Ma te la sei fatta? No, non ancora. Non ancora, però te la vuoi fare? Non lo so, me la devo conoscere prima, non è che vada a farlo. Conoscere adesso, così, conoscere, sai che pochi giorni fa, per caso, e non lo sapevo, ho visto un film che si chiama South Kensington, e non sapevo che, è stata una sorpresa, non sapevo che c'era la signora Rivelli. Sì? Ma la Rivelli ha fatto un sacco di cose. Ah, ma South Kensington qual è? Quello con coso? Con di Vanzina, con credo. Con Rupert Everett, come no, certo. E non sapevi Bellozzo che c'era la signora Rivelli? No, tu lo sapevi? Io faccio la figlia di Rupert. Fai la figlia di Rupert. Infatti è stata una bella sorpresa. L'ho guardato e mi è venuta in mente questa frasetta che lei ogni tanto mi ripete. Che non troviamo, che abbiamo trovato. Eccola qua. Questa cosa. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Capito, questa è la frase che io mando praticamente sempre. Eccola qua. Che io mando. Allora, abbiamo smentito che la figlia di Ornella Muti, ma ormai possiamo dire più famosa quasi ormai della madre, Nike Rivelli. Più infamosa della madre, non è lesbi, cioè non si è innamorata. No, lesbica no, perché lei. Mi piace un mondo così. È bisex. Mi piace un mondo così. A me mi piace il pisello. Ti piace? Okay. È quello, d'accordo. Detto proprio così, sì. Dici senza se troppi giri di parole. Anche aggiungersi, sì, una donna ogni tanto, insomma, sai. Non fa male, no, non fa male. Signora, ma io non ho capito, ti piace? No, ma io la penso così, per esempio. Sono anni che non succede. Cioè, come ti piace di più? Un uomo con una donna insieme, a tre? Due donne e un uomo. Due donne, siamo al top, Parenzo, siamo al top. Assoluto, siamo davvero al top. Dimmi che non piace Rivelli. Anche a te. Dimmi che non piace. Io non ci credo che ci sia nessuna persona al mondo a cui non piacerebbe. Esatto, quindi... bravo. Parenzo, di la verità. Confessa, a me piace tantissimo. La signora tantissimo. Rivelli. Ecco, no. Nike, scusa, vogliamo far confessare Parenzo Nike, su questo? Nike là, adesso è uguale. Dici la verità. Parenzo, dai, dici la verità, Parenzo. Mi piace un mondo così? Anche a me piace un mondo, come dice Dinolfi. Bisognerebbe girare la domanda alla signora Dinolfi, non a me. Dai, che sta sfuggendo a questa cosa qua. Con la tua voce, cerca di storcergli una risposta, per favore. Dai, dici la verità. Ti piace? Io adesso, allora, voglio, domani vengo da te. No? Cosa fa, signora, scusi? viene da lei, sì, e le faccio un'intervista. Sì. Ok? Va bene, va faccio bene. L'ape regina, no, la regina è mia madre, faccio no, l'ape regina è un'altra. E vengo da lei e le sì. chiedo un po' di informazioni su esatto. insomma, va bene, no, ma, io. Ma io in privato posso anche rispondere no, tranquillamente. No, ma no, no, ma in generale non ti piacerebbe? No, in privato posso rispondere. Tutto, ragazzi. Ma ti piacerebbe o no, Parenzo? Ti piacerebbe o no? Qual è la domanda, scusa? Lo so. Ma qual è la domanda? Ti piacerebbe farlo con due donne? Me l'ha detto. Ah, te l'ha detto, te l'ha già detto. Sì, lo sento cosa, signor Rivelli? Me l'ha detto, dai. Dai, te l'ha detto. Sì, come direbbe Adinolfi, guarda. Ma perché? Non capisco perché. Metti non vuoi confessare questa cosa. Fai sentire Adinolfi. No. Fai sentire la signora Rivelli Adinolfi, fagli sentire. Quando ha detto Rivelli. Che le piace no, il pisello, le piace però un mondo anche... così. Esatto, fagli sentire Adinolfi, fagli sentire cosa direbbe Adinolfi. Mi piace un mondo così, a me fa cagare un mondo così, fa cagare. Io non sono d'accordo con Adinolfi. Ah, allora hai confessato. Ma già ti ho detto che non sono d'accordo con la Adinolfi, scusa. Hai confessato. Anche mi piace non... un mondo così? Sì, mi ci piace un mondo sì, così. Ci piace un mondo così. Un mondo così. A noi ci piace tantissimo e ha confessato, d'altra parte sarebbe innaturale se non piacesse, giusto? No, non ho confessato, sì, ho detto che non la penso come Adinolfi. Mamma mia, come sei, guarda, veramente. Allora, io però voglio capire una cosa, ma è vero che tu sei in qualche intercettazione insieme a Tomato in questa storia qui di Mafia Capitale? Allora, non mi risulta. Hanno scritto qua. Amore, quello che scrivono su di me. Ma conosci Carminati, qualcuno di questi qua? Non lo so, lo sai, io non, come non lo so. No, a parte sui nomi, io sono veramente un disastro. Roma è piccola, ho conosciuto un sacco di persone, ma mafia, cioè almeno il mio profilo andrà appunto. Lo vedo in maniera diversa, lo vedo molto più di violenza e di spessore, questa mi sembra una bolla romana. Cioè, una roba, sei d'accordo con Ferrara quando dice che è una roba? Che hai fatto? No, non ero io. Che hai fatto? Io che dico quello che penso di questa casa. Cioè, che non è una mafia, ma è una robetta così, una scoreggia. Una roba che sì. Aria. Tipo Ferrara oggi penso che siamo, capito, cioè, insomma, no? Ferrara, di fronte al fatto che hanno trovato il coltello, quello della scimitarra, il tirapugni, ha detto: ma queste sarebbero le armi della mafia. Sono, dai, ragazzi. Beh, quello che c'entra. Vabbè, comunque, sai, questi erano pericolosi, non c'è dubbio. Alcuni erano pericolosi. Io, purtroppo, come sapete, nei salotti di questo genere non vengo invitata. No. Dove ci stanno i VIPs, nei tips, nei finti mafiosiz, a me, io sono la Rivelli. Te sei la Rivelli? Lo so. La. Com'è che fa quella cosa? Ti abbraccio, dai, ciao, ragazzi, un bacio. Quando mi invitate davvero, però? Vuoi venire? Ma c'è la musica originale o no? C'è la originale, e poi sotto mettiamo, vi piace un mondo così? Vi piace un mondo così? Saluta anche la mamma. Ciao, saluta la mamma, ma è vero che vuole prendere la cittadinanza russa? Il passaporto russo? Sì, mia mamma è mezza russa, ragazzi, mia mamma è mezza russa. No, ma è vero che vuole prendere il passaporto russo o no? Non lo so, penso che essendo mezza russa. L'ho letto da qualche parte, per la storia delle tasse, tipo Depardieu. Bellissimo, amore, sarebbe mia stupendo. Mia madre è residente a Monte Carlo, che gli frega di prendere la mezza russa. Anche questo se paga meno pure. Ma se paga meno pure. Ma no, non si paga meno in Russia, non è così. Ma perché non vai pure te a Monte Carlo, residente a Monte Carlo? Io? Perché io vivo a Roma. Lo so. Io non guadagno una minchia, che mi frega di andare a fare la residenza a Monte Carlo. E lì si potrebbe giocare sul fatto che non guadagni una minchia, però vabbè, lasciamo perdere. Ti abbraccio, okay. Un bacio, ciao cara. Ciao. Questo non ho capito. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Ci puoi dare questa informazione? Che ne so, ieri hai fatto l'amore? Eccola qua. No, non si tanto, non risponderai. Vogliamo riprovare col bar, ragazzi? È abbastanza. Ma è aperto ancora il bar di Mussolini? Adesso vediamo. Vi piace un mondo così? Simone Bologna. Sì, vai, allora, Simone, Parenzo, dimmi. Gli è piaciuto il regalo a Parenzo, allora? Qual è il regalo? Questo qui. Quale sarebbe? Ah. Non so. Ma non tira la catenella, ma falla bene io sta anni roba. Fa non... a Pira più di così ci sono entrato dentro col telefono, io non ho i soldi. Aspetta, di Parenzo, aspetta, quindi aspetta, aspetta. Ecco, ma si vede che non aspetta, hai neanche aspetta. Uno sciacquone che funziona. Dai, Armando. Sì, buonasera signora. Pronto, signora Maristella? Pronto, è ancora lei, sì. Sì, ma non sono io, non sono quello di prima, sono un suo amico. Anch'io ho preso in mano questo scontrino con Mussolini, ma signora, non si fa. Io lo dico con più calma del mio amico, ma non si fa. sì, ma ascolti, guardi che io non voglio, le spiego un attimo la mia, la mia protesta. Non è che io voglio che ritorni il ventennio fascista. Ma signora, lei mette nello scontrino Mussolini. Vorrei che ci fosse in Italia un po' più di rigore. E questo, se avete letto l'articolo sul giornale, sì, che ritorna un attimo ad avere più valori, di non avere paura di andare fuori da... Allora lei continua a chiamarmi per dirmi se non mi vergogno. Mi vergogno dell'Italia che ho adesso, non dell'Italia del ventennio. E i Rom? E buonasera, e sto lavorando e non rompetemi più le scatole. I coglioni, anzi. I Rom, e i Rom, e Pasolini, e Pasolini. Questa però. Oh, ci siamo dimenticati di quel consigliere regionale che voleva fare il coso, Davide, che voleva fare... Le scie chimiche? Le scie chimiche, cazzo, con il convegno. E poi c'è anche il sindaco Scientology, vabbè, questo lo vedremo a lunedì, dai, lunedì. Grazie per averci seguito. No, aspetta, mancano due minuti ancora, aspetta. Paolo Milano, dai, ultime polemiche, pensavo ultime scintille, ultimi tutto. Bordelli, dai, Paolo. Sì, ciao. Dimmi, veloce, vai. Sì, veloce. Parenzo, ascolta, io non è che ce l'ho con te, però no, scusami, un minimo di coerenza. Dimmi, ti prego. Qua che ti sbracci, no, perché a favore del... dello sciopero, e però sei lì a lavorare. Allora, con un minimo di coerenza, tu sono una partita IVA. È vero, ha ragione, però, su questo non ha torto, ha ragione Paolo, tu devi essere coerente, perché ha ragione Paolo su questo. Ti verrei a prendere, perché così fai la figura del servo del padrone. Ti prego. Ha ragione, dovevi scioperare, dovevi scioperare. Io sono un lavoratore autonomo. Ma che c'entra aderire allo sciopero contro Job Act, contro le cose? Che danno faccio? Faccio solo un favore se mi assento dal lavoro poi un giorno. Fai danno a me. Faccio un favore, faccio contenti questi qui, invece vengo a lavorare, così quelli di Riccardo da Roma si arrabbiano, così quell'altro che mi odia si arrabbia, invece vengo, ma vengo per lui, per fargli dispetto, per fare dispetto anche a questo qui. Non te la cavi così. No, ha ragione Paolo, ha ragione Paolo. Non ero d'accordo con l'impianto generale dello sciopero, non ero d'accordo. Difendo quegli operai che però hanno aderito alla manifestazione perdendo dei soldi. Roberto, questo da Roma, veloce, dobbiamo chiudere. Roberto, vai. Hanno rotto i coglioni, mi senti? Sì, sì, ti sento, vai. Hanno rotto i coglioni con questi scioperi, non servono. Lascialo parlare. Vado, cazzo, mi sono fatto 4 ore di macchina all'andata. Fallo parlare. Ma te che te ne frega, mi sono fatto 2 ore di macchina. Non servono a niente. Ha ragione, ma fallo parlare. Si allunga nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Sabato, io tanto due, io sabato. Il venerdì, una B sabato, no, sabato. Io lo dico con tre, sabato, sabato. Io lavoro il sabato, la domenica. Ti richiamo Roberto, ha ragione Roberto, non lo insultare. Un ascoltatore scrive per chiudere: hai notato che quando Parenzo è al top come stasera la trasmissione è di gran lunga più geniale? E con questo chiudo, chi ha voluto capire capisca. A lunedì 18:30, ciao. Maremma Zingara Giuseppe, si è mai fatto incazzare questa settimana? Sono la Beatrice, la trans del gruppo Riccardo da Roma. Ciao caro. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Radio 24. La passione si sente.